21.000 miliardi di dollari, l'equivalente del PIL degli Stati Uniti e del Giappone messo assieme. Questo è l'ammontare delle somme sottratte al fisco a livello mondiale e parcheggiate nei paradisi fiscali. Non lo diciamo noi, lo dice il rapporto Tax Justice Network. 21.000 miliardi di dollari, quanto producono l'America, gli Stati Uniti e il Giappone in un anno. Un terzo di queste somme appartiene allo 0,01% della popolazione più ricca, 90.000 persone. E poi le banche ci guadagnano, perché diciamo all'avanguardia nell'agevolare i trasferimenti nei capitali dove non si pagano tasse sono UBS, Credit Suisse, Goldman Sachs, Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan. Nel 2010, gli ultimi dati che abbiamo alla mano, la sola UBS ha spostato, occultato, si può dire occultato, beh insomma, di solito sì, uno non è che li mette lì perché gli piacciono che i soldi stiano al sole, li mette lì perché gli piace che i soldi non stiano all'ombra, al buio, non vengono visti, e quindi diciamo occultato. Ho occultato nei paradisi offshore la sola UBS 1.350 miliardi di dollari, il Credit Suisse 470, Goldman Sachs 166 miliardi. E il rapporto Tax Justice Network fa notare una cosa, a mio avviso, molto importante. Siccome sono soldi neri che scompaiono, in realtà la disuguaglianza in molti paesi occidentali è molto più alta di quanto noi non riusciamo a vedere. Cioè noi vediamo le dichiarazioni dei redditi, il tenore di vita, ma se sommassimo tutti questi migliaia di miliardi che sono finiti nei paradisi fiscali, dovremmo dire che la differenza tra tanto ricchi e tanto poveri è ancora più alta, e non c'è nessuna demagogia in questo. Per quello che riguarda l'Italia, si stima che siano 150 miliardi i soldi depositati illegalmente in Svizzera. E voglio essere molto chiaro, noi abbiamo spesso detto che il fisco, l'agenzia delle entrate, deve stare attenta a accanirsi con gli studi di settore su artigiani che vanno in difficoltà, commercianti, artigiani, piccoli imprenditori che vanno in difficoltà per la congiuntura economica, che non può diventare una persecuzione. Allo stesso tempo però non c'è nessun tipo di pietas, di comprensione per chi ha portato in questi decenni centinaia di miliardi italiani all'estero illegalmente. Non me ne frega nulla, dovevano restare qui come quelli di poveri cristi che non riescono a portarseli o farsi aiutare da una banca a portarli in Svizzera illegalmente. A me non interessa se uno apre legalmente un conto corrente, che lo apra, ma sono tutti soldi messi lì con gli spalloni, anche con gli spalloni coi gemelli e col gessato, mica lo spallone è solo quello valtellinese che non c'è neanche più. 150 miliardi di euro. Se l'Italia sottoscrivesse un accordo sul modello di quello fatto dall'Austria e oltre che dalla Germania e dall'Inghilterra, cioè 25% di una tantum sul patrimonio depositato in Svizzera e un 25% ogni anno sugli interessi maturati, in cambio viene salvato e salvaguardato l'anonimato, beh, beccheremo da subito 37 miliardi e poi un flusso di 500-600 milioni. Certo che se aspettiamo, questi capitali dalla Svizzera se ne vanno a Hong Kong. Le risulta, avvocato Vedana? Sul risultare che i soldi stiano... No, dico che più si annuncia, no, non che lo sappia lei direttamente, diciamo, ma che più uno continua a annunciare vogliamo fare l'accordo con la Svizzera, più questi, le banche svizzere ti aiutano ad andare a Hong Kong, a Singapore, vede, può essere, che, diciamo... Certo, il ragionamento non può essere condotto sul singolo Stato e quindi da questo punto di vista credo che l'Unione Europea ben abbia fatto a dire basta fare accordi bilaterali come altri hanno fatto, ma facciamo un accordo insieme, altrimenti rischiamo di avere delle enclave fiscali all'interno dell'Unione Europea. Primo punto. Secondo punto, è importante l'accordo Cayman, ma forse è ancora più importante una notizia che forse non è ancora arrivata sulla scrivania, è che ieri notte gli Stati Uniti d'America hanno approvato in via definitiva la normativa FATCA, che non è una parolaccia, è sostanzialmente la normativa con la quale gli Stati Uniti, io lo chiamo un po' un nuovo imperialismo fiscale americano, chiedono a tutti gli stati presso i quali cittadini europei, cittadini americani o semplicemente soggetti che hanno il passaporto americano hanno dei soldi, quindi anche presso le banche italiane così come presso le banche svizzere, chiedono di avere notizia di questi depositi per poter assoggettare questi depositi alla tassazione americana. Trattasi della normativa FATCA approvata durante la notte dal Dipartimento del Tesoro americano. Credo che la lettura dell'accordo o dell'apertura, meglio, dei segreti delle Cayman sia da leggere in combinata con questa normativa. Con quello che ha deciso l'America. Direi proprio di sì. Ecco, per quello che riguarda invece l'Europa, la convince di più o la convincono di più gli accordi bilaterali fatti da Germania, Inghilterra e Austria con la Svizzera, oppure secondo lei ha ragione l'Europa che ha bloccato tutto e ha detto no, dobbiamo avere un accordo quadro complessivo con i paesi dell'area euro? Innanzitutto Barisoni si ricordi che gli accordi la Germania non li ha firmati con la Svizzera, stava per firmarli tra novembre e dicembre, poi il Bundestag l'ha bocciato, infatti sono Inghilterra e Austria le due che hanno. Perfetto, quindi diciamo che lo stop tedesco è stato interpretato come un avallo di Bruxelles, prima dello stop europeo, e così è stato, motivo per il quale l'Italia, che era prossima alla firma di un accordo, sull'onda del niente tedesco ha detto no, non firmo neppure io. Diciamo sì, posso, se vogliamo essere proprio precisi, però il Bundestag l'ha bocciato quell'accordo non perché ne contestasse il principio, ma perché ha detto che era troppo morbido con gli evasori. No, avvocato, chiariamoci su questo. Il Bundestag ha detto quell'accordo lì favorisce chi ha portato capitali in maniera illecita in Svizzera e quindi è troppo morbido. Non era contrario al principio dell'accordo. Però detto questo, andiamo avanti. Vorrei capire quale secondo lei è la strada maestra da seguire. Strada maestra da seguire credo sia quella che si sta seguendo, comunque fare degli accordi non bilaterali ma degli accordi che possono riguardare il maggior numero di stati, altrimenti, come giustamente diceva lei, l'occulto, se non va bene più una certa tasca ne utilizzo un'altra, ma finché ho delle tasche ci sarà sempre la possibilità di. Certo, l'apertura odierna delle Cayman è significativa nel senso del vento che è cambiato, ma per la verità è cambiato, se lo ricorderà, no? Già qualche anno fa con i famosi accordi fatti dal G20 che avevano detto un po' stop al segreto bancario, e diciamo l'Europa da questo punto di vista ha fatto la sua parte con una direttiva, la 2011-16, che è entrata in vigore proprio quest'anno, a gennaio 2013, ed ha sostanzialmente abolito le barriere al segreto bancario a livello europeo. Quindi ciò vuol dire anche paesi come Lussemburgo, come Malta o analoghi che sono all'interno dell'Unione Europea ma hanno tradizionalmente una tassazione molto più bassa, devono aprire i loro scrigni se un altro Stato presume, ovviamente comprovandolo, che un soggetto sia un evasore e si sia, tra virgolette, nascosto, abbia occultato i loro denari presso una banca operante in un paese europeo. Questa è una normativa entrata in vigore a gennaio di quest'anno, quindi fresca. È una direttiva che si sposa con questa normativa americana FATCA, di cui le ho detto, che entrerà invece in vigore a gennaio 2014 e che riguarderà sostanzialmente a questo punto tutti i paesi del mondo. La Svizzera in tutto questo come si innesta? Evidente in tutto questo la Svizzera si ritrova, tra virgolette, un po' più sola perché non è Unione Europea e quindi si ritrova a dover fare i conti con tante disponibilità depositate da nazionalità diverse, italiani, tedeschi, e americani e quant'altro, e la voglia probabilmente anche, le posso assicurare, da parte della Svizzera di trovare una soluzione che in questo momento però è stata stoppata proprio dall'Unione Europea. Certo. Mi dica una cosa per concludere, una battuta, però adesso gli accordi vanno benissimo e ci devono essere, anche perché con una crisi come questa manca solo che tutto resti come prima nell'occultare soldi e quindi le tasse che vanno pagate su questi soldi, però oltre che, ricordo a chi scrive, essere paradisi il paradiso fiscale, non è che ti chieda il certificato antimafia, ci siamo su questo, per cui non sono solo i cittadini normali che occultano al fisco le tasse e i guadagni, ma ci sono anche tutti i guadagni della mafia, che il lavaggio. Ci fu un libro bellissimo anni fa, non posso tornare su questo, che si chiamava La Svizzera lava più bianco, chiaramente non era riferito al bucato in senso, ma al bucato monetario. Comunque chiudo su questo. Per quanti accordi si possono fare, avvocato, resterà sempre qualche isola felice? Cioè, voglio dire, tanto è forte la pressione di questi capitali, delle banche che li gestiscono, che sarà impossibile debellare, oppure invece con la legge internazionale si può ridurre notevolmente il vantaggio nell'elusione? Ma guardi, io credo di dire una cosa scontata, ma molto forse non così banale. Basterebbe che a livello internazionale si desse una definizione uniforme di cos'è il reato di riciclaggio, ma soprattutto di cos'è il reato che determina il denaro sporco. Basterebbe quello, le assicuro, per allineare, se non tutti i paesi, quasi tutti praticamente dicono di combattere e hanno delle leggi per contrastare il riciclaggio del denaro sporco. Non sono ancora d'accordo su cosa significhi denaro sporco. Il denaro sporco vuol dire denaro che arriva da un altro reato. In Italia, perché il denaro sia sporco, può arrivare anche semplicemente da evasione fiscale. Non è così in tutti i paesi del mondo, neppure in tutti i paesi europei. Basterebbe, se tutti vogliono combattere il riciclaggio del denaro proveniente da determinati reati, essere tutti uniformi nel dare una definizione del reato di riciclaggio, ma soprattutto di cos'è il reato che determina il denaro sporco che poi viene riciclato. Le assicuro che arrivare ad un'uniforme definizione di riciclaggio porterebbe probabilmente a superare i molti ostacoli che oggi ci sono. Però per arrivarci credo che ci vorrà ancora qualche anno. E chissà perché non ci si arriva delle volte, no? Nel senso che la definizione di omicidio è molto facile, non vedo tutta questa differenza nei paesi occidentali, però è che ho capito benissimo il suo ragionamento, sulla fattispecie giuridica su cos'è denaro sporco non viene precisata e condivisa da tutti i paesi, è impossibile trovare un accordo. E la ringrazio, grazie anche per averci fatto capire dove si muove la giurisprudenza, seppure con difficoltà a livello internazionale. Grazie all'avvocato Fabrizio Vedana, appunto vice direttore generale di Unione Fiduciaria S.p.A. Adesso c'è la borsa, molti messaggi critici sui paradisi fiscali, qualcuno però che scrive: ma la smetta di fare il puro, vabbè, inteso come sigaro immagino, e poi ma un altro, un campione di democrazia che scrive: ma quando vi deciderete a mandare a casa Sebastiano Barisoni, campione di superficialità e declamatore sciocco di luoghi comuni, incapace di approfondire seriamente, senza facili e banali demagogie, gli argomenti trattati. Ah, ma no, non si può dire, è la miseria. Cambiamo, voltiamo pagina, andiamo verso la borsa, borsa che ha chiuso in negativo ma in linea con il resto d'Europa. Meno 0,20% Milano, meno 0,1% Parigi, meno 0,4% Francoforte, positiva invece Londra, più 0,30%, leggermente negativa l'America in questo momento, meno 0,14% sul Dow Jones. Parleremo di Mediaset, più 5,77, Buzzi Unice in più 4,14, male invece Enel, meno 2,70, però vorrei subito commentare invece i dati diffusi dal colosso mondiale numero uno al mondo nei produrre i microprocessori, Intel, perché gli utili hanno battuto le attese, ricavi in linea con le aspettative. Siamo in collegamento con Dario Bucci, responsabile Intel Italia e Svizzera, buonasera. Buonasera a lei, grazie. Allora, 2012 anno difficilissimo per tutti, per voi no, mi sembra di capire, sono contento, utili a quota 2,6 miliardi, in realtà c'è un calo e anche non di poco sul 2011 quando avete fatto 3,4 miliardi di utili, ma il mercato si attendeva, se ho ben capito, utili ancora più in calo? Beh sì, diciamo che l'anno comunque è stato difficile anche per noi, è stato positivo concludere alla fine con il risultato che è esattamente quello che avevamo pronosticato, e questo ovviamente al mercato piace comunque, ma il risultato poi, se vediamo del mercato in generale in questo momento sul titolo, non è poi così positivo. No, infatti, accanto a noi c'è la voce di Radio 24, quando parliamo di information technology, lui sa tutto, è appena tornato da Las Vegas dove si è giocato lo stipendio, però almeno Enrico Pagliarini. Buonasera. Beh, hai giocato molto poco comunque, a questo punto la battuta era d'obbligo. Buonasera Bucci. Hai fatto 10 minuti alle slot. Detto questo, parlando prima dell'intervista con lei, con Enrico Pagliarini, si diceva c'è il dato sui ricavi che è interessante, Enrico. Sì, è interessante vedere e capire da Bucci da dove arriva il maggior numero di ricavi, per capire anche un po' le tendenze, visto che si dice spesso l'era post-PC. Sicuramente post-PC, occhio che siamo in campagna elettorale, post-computer. Sì, post-computer, PC l'abbiamo già fatto. Quindi in un momento in cui crescono molto i terminali mobili, smartphone e tablet, volevo capire come vanno le cose, visto che poi voi state iniziando adesso a investire e a proporre processori per il mobile. Gliela faccio più cattiva io. Come avete fatto a fare ricavi se siete così poco presenti sulla parte che sul cresce mobile, di più, sul mobile? Beh, allora, innanzitutto il mercato del PC è tutt'altro che morto, è vivo e vegeto, e soprattutto la prima parte dell'anno ha visto domanda dai mercati emergenti estremamente forte. Quindi, prima di sotterrare il PC, oppure il personal computer, può dare ancora tantissime soddisfazioni. Parliamo di oggetti, tablet e smartphone che di solito vanno ad affiancare e non a sostituire il personal computer, sono andate a sostituirlo nelle scelte degli investimenti, soprattutto dei consumatori, quindi si sono presi quelli che gli americani chiamano lo share of wallet, cioè i fogli da 100 euro sono andati da quella parte piuttosto che a cambiare il PC che magari 4 anni dice lo tengo ancora un po'. Detto questo, come si fa a prosperare vendendo componenti per tablet e smartphone? Bisogna fare comunque ovviamente un numero più alto di prodotti, ma mantenendo anche a costi più bassi una buona marginalità. Non a caso investiamo quest'anno in ricerca e sviluppo in fabbriche, anche se gli analisti hanno storto un po' il naso perché ha un fatturato praticamente costante sul 2011, perché Intel investe di più. Investiamo di più perché investiamo in una tecnologia ancora più piccola, 14 nanometri, e a wafer sono queste grosse fette di silicio che vengono impresse, quindi ovviamente in parallelo vengono fatti più prodotti, da 450 mm. Questo ci consentirà nel 2014 e nel 2015 di essere estremamente efficienti. Efficienza vuol dire poi alla fine margine. Ecco, dov'è che investite però come Intel? In termini di, ripeto, di posizione, parliamo soprattutto negli Stati Uniti per quanto riguarda le nuove fabbriche, anche se siamo presenti in Irlanda e in Israele per quanto riguarda, diciamo, l'area EMEA. Prego, Enrico. Questo è molto importante perché effettivamente Intel è nota per essere così efficiente, infatti controlla le fabbriche, ha fabbriche proprie, mentre quasi tutti gli altri produttori di microprocessori fanno produrre, progettano e fanno produrre conto terzi. Su questo naturalmente, non avendo il controllo della fabbrica, l'efficienza non è così, così elevata. Sicuramente questo è un dato interessante e importante. Bucci, abbiamo 30 secondi, le prospettive per l'anno in corso in una battuta? Penso che il mercato della mobility, e quindi smartphone e tablet, dia ancora grandi soddisfazioni. Noi ci affacciamo a questo mercato e per noi è una grossa opportunità. Sette minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. C'è adesso la borsa e poi cerchiamo di capire perché, dato della Banca d'Italia, oggi siamo solo a gennaio e già si iniziano a rivedere tutte le previsioni al ribasso. Doveva essere l'anno della ripresa, -0,4, -0,5 nel finale, come medio d'anno, siamo già al -1% per il 2013 e il 2013 è appena iniziato. Forse c'è qualcosa che nella ricetta tedesca non sta funzionando. Austerità, rigore per ridurre il deficit. Stanno facendo ridurre il PIL, con la conseguenza che il deficit, che è un rapporto, non lo ridurremo mai in questo modo. Forse. La borsa prima. Ciao Condina, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a voi. Mediaset, questo voglio capire, il resto insomma più 5,77, ieri più 7%, quanto ha guadagnato dal 12 dicembre, quando Berlusconi ha fatto sapere che sarebbe sceso attivamente nella campagna elettorale? Vale circa il 40%, mm-hmm. Poi il rialzo è ancora più corposo, si parla quasi di un 70% da quando aveva toccato i minimi storici a metà novembre. Mm-hmm. Sicuramente un rialzo che continua a sorprendere, anche se dalle sale operative fanno notare che insomma i casi sono due: o si tratta di un rimbalzo a seguito di insomma performance decisamente negative durante il corso del 2012, oppure diciamo c'è un rastrellamento che tuttavia pare molto improbabile, e anche in questo caso però è difficile capire chi c'è dietro appunto questi acquisti. Oggi peraltro vanno bene anche parecchi titoli editoriali. Ieri c'era stato un report di Credit Suisse che sosteneva che la pubblicità potesse riprendere quota quest'anno e negli anni a venire. Sicuramente una boccata d'ossigeno per i gruppi editoriali e anche per la stessa Mediaset. Ancora Buzzi, Unicem, c'è lì notizia più che altro su Stati Uniti e Messico. Sì, c'è una, diciamo, un ottimismo del mercato sul, sui margini del gruppo e sul fatto che il gruppo si abbia un'esposizione territoriale, il cosiddetto mix territoriale, che anche alla luce dei dati sulla crescita economica sia diciamo ottimale. Infatti Boots è esposto anche su Messico, su Russia, su Stati Uniti, oltre che sull'Italia, quindi insomma su paesi che hanno sostanzialmente dei buoni dati di crescita, diversamente dai nostri che ricordavi tu prima. Ecco, in tema di editoriali, quindi Mediaset, faccio notare che, come tu già accennavi, sono andati molto bene tutti i titoli legati al mondo dell'editoria. Mondadori ha fatto più 8%, Il Sole 24 Ore più 15%, e Class Editori più 18%. Sì, questo per ricordare che non è solo Mediaset oggi. Io non ho capito, lo dico col massimo rispetto, visto che parliamo anche del titolo del gruppo per cui lavoriamo, però... che cosa sia cambiato nelle prospettive, mi è sfuggita qualche notizia, evidentemente sulla raccolta pubblicitaria in generale, sul mondo dell'editoria, però meglio un più che un meno, e con questa cosa da catalano andiamo avanti. Telecom Italia. E Telecom Italia guadagna oggi, si attesta a 0,76 euro più 0,8% fino a pochi minuti della conclusione, diciamo che il rialzo era addirittura più corposo, superava il punto percentuale in vista insomma della scadenza per le offerte vincolanti di inizio febbraio per la 7, diciamo che gli operatori scommettono su una cessione appunto, appunto della rete televisiva. In questo caso l'ipotesi è quella che è emersa nelle ultime ore a Cairo, diversamente da quanto si era ipotizzato prima, al fondo Clessidra e a Equinox. La cessione a Cairo, come noto, non avrebbe, per quanto riguarda le frequenze che Telecom Italia considera possano ancora portare dei margini alla società. Enel meno 2,70%. E qui invece pesano su Enel, diciamo, il pessimismo del mercato su quelli che saranno i margini dei prossimi anni, pessimismo che, come sappiamo, diciamo, è diffuso a tutti i principali gruppi energetici che producono più che vendono energia. Il meccanismo è noto, la produzione di energia non è particolarmente redditizia, visto che le industrie alla luce della crisi economica non consumano energia e quindi i margini sulla produzione sono sempre più risicate. Per quanto riguarda Enel, poi gli esperti ricordano anche l'elevato indebitamento e il fatto che la società, per ridurre l'indebitamento, dovrà forzatamente, diciamo, stringere la cinghia anche sui dividendi. Due titoli poi minori, Premafin più 13%, vado a vedere il dato finale però, eccola qua, più 13,44%, e invece Meridiana meno 15%. Vabbè, su Meridiana ci sono dei logici... Ha fatto un botto in questi giorni. Sì, dopo la prospettiva dell'iniezione di capitale da parte dell'Agacan. E magari anche il rastrellamento delle azioni dell'Agacan, certo. Ci ha messo un po' di tutto, insomma. Invece per quanto riguarda Premafin, anche qui ricordiamo che sono titoli scesi molto molto in basso, c'è stata la presentazione ufficiale all'IVAS della progetto di fusione Fonsa Unipol, quindi tutti i gruppi della ex Galassia Ligresti e la stessa Unipol hanno imboccato la strada del rialzo in borsa. Ancora altri titoli, Fiat Industrial meno 1,5, Monte dei Paschi meno 1, oggi miste le banche, Eni meno 1 come Enel Green Power, sul fronte di chi ha guadagnato invece Unicredit più 1,80, Ansaldo più 1,60, Intesa San Paolo più 1,1, Fiat intesa come auto più 1%, Saipem più 0,80 come Telecom Italia di cui parlavamo, e Toz, buon fine settimana a te, Ceo, e a tutti anche i colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore. Poi c'è qualcuno che critica quando invitiamo l'astrologa, ma mo sentite questo. Fondo Monetario Internazionale, stima dell'aprile 2012, l'anno scorso. L'Italia nel 2013, quest'anno, calerà, il PIL calerà di uno 0,3%. Fondo Monetario Internazionale, a ottobre, no, il calo italiano sarà dello 0,7%. Il governo, ad aprile del 2012, chiuderemo il 2013 in crescita, sarà l'anno della ripresa, più 0,5%. Poi anche il governo a settembre si corregge e dice no, meno 0,5% quest'anno, 2013. La Banca d'Italia ad aprile dice beh, il 2013 sarà debole, meno 0,2%. Poi oggi, ecco la notizia, no, chiuderemo il 2013 con meno 1%. Allora io dico, va bene che l'astrologa guarda gli astri, ma vorrei sapere che cosa guardano gli altri, perché è il quarto anno di fila che andiamo a rivedere le previsioni tutte in negativo, e adesso il tempo della ripresa è come il tempo delle mele, è il 2014 ormai, no? Perché se fai meno 1% nel 2013, io voglio capire se, e dicono che ci sia anche un po' di ripresa negli ultimi tre mesi, ma quanto perdiamo nei primi tre trimestri per fare meno 1 in finale? Ammesso non concesso che Banca d'Italia, Fondo Monetario, Governo, OCSE ad aprile non tornino a dirci: sapete che c'è? Ci siamo sbagliati, è ancora un po' più in calo l'economia. Sarà ancora un po' più in calo l'economia. C'è qualcosa che non sta funzionando, e lo dico anche all'ascoltatore che dice: guardi che il deficit non è un rapporto, è una differenza. No, si sbaglia. Il deficit che a noi interessa non è il deficit assoluto, il debito assoluto, è il deficit in rapporto al PIL. E tu puoi avere un deficit di 1000 e un PIL di 1000 e vai a zero. Se si riduce il denominatore, e quindi l'economia italiana, anche se hai uno spreco di 1000 euro in un anno, il tuo deficit sarà comunque enorme. Se invece tu fai crescere l'economia, in automatico, essendo un rapporto deficit su PIL, a parità di deficit, se cresce il PIL si riduce la proporzione, magari dal 3% scende al 2%. Perché lo dico? Perché quello che tutti guardano è il rapporto deficit PIL e debito PIL. Tutti lavorano sul numeratore, ridurre il deficit, ridurre il debito, che va bene, per carità, ma con questa cura da cavallo sta ammazzando il cavallo, e nessuno si preoccupa di vedere che nel frattempo il nostro PIL continua a peggiorare, dato di oggi, e quindi i tagli fatti rischiano di non essere sufficienti se ti si abbassa e si riduce il denominatore. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Preoccupazione su questo da parte dei sindacati. Angeletti lancia 5 punti, non sono cose nuove. Il segretario della UIL chiede, assieme a Bonanni, segretario della CIS, di portare queste istanze assieme alla Confindustria, assieme a Squinzi, per avanzare un insieme di proposte per il paese. Angeletti. Purtroppo si conferma il fatto che se abbiamo salvato gli aspetti finanziari, l'economia reale continua a peggiorare, e questo rischierà di rendere questo paese una specie di deserto per i posti di lavoro. Magari la crisi in Europa sarà superata, ma questo automaticamente non significa che ci salveremo come paese. Ridurre le tasse sul lavoro, difendere l'occupazione, creare nuovi posti di lavoro, rivalutare le pensioni, ridurre i costi della politica e ammodernare la pubblica amministrazione. Vabbè, detto così siamo tutti d'accordo. Però ripeto, c'è qualcosa che non sta funzionando. La Germania se ne sta accorgendo perché ha frenato due giorni fa. Io vorrei parlarne con chi presente su varie TV e giornali, ma da sempre sostiene una prospettiva macroeconomica un po' diversa. Mi riferisco a Mario Seminerio. Buonasera. Buonasera. Lei ha scritto un libro, devo dire, condivido buona parte di questo libro, non tutto. Ci mancherebbe, La cura letale. Chi sta facendo fallire l'Italia e come l'Europa sta peggiorando le cose, ossia perché di austerità si muore e come invece è ancora possibile salvare il paese. Insomma, è facile chiederle un commento, ma se l'aspettavo una revisione già a inizio gennaio così brusca, la Banca d'Italia che dice nel 2013 l'economia italiana non farà meno 0,5, farà meno 1, cioè il doppio di calo. Per quanto riguarda le revisioni, è vero quello che lei diceva prima, cioè che noi siamo sistematicamente in errore, nel senso che vengono corrette al ribasso, quindi c'è qualcosa che non funziona, al di là di quella che è la natura dei modelli econometrici che vengono utilizzati per queste stime. Si possono calibrare in un modo piuttosto che in un altro. Il problema vero è che dopo molti anni, dall'inizio di questa recessione europea, che ha preso le mosse dalla crisi americana, ma che oramai è abbastanza chiaro che in larga misura è autoinflitta, cioè è frutto di clamorosi errori di policy che prendono le mosse sostanzialmente dai diktat tedeschi, dall'ansia tedesca di arrivare il prima possibile a far pareggiare i conti a tutta l'eurozona per non trovarsi nella spiacevole condizione di pagatori di ultima istanza, e comunque loro non lo sono, sarebbe utile sfatare questa leggenda. Noi stiamo scoprendo che strette fiscali simultanee, violente, contemporanee di quella che comunque è la seconda più importante area economica del pianeta, sorpresa sorpresa, provocano una recessione che si autoalimenta. E stiamo scoprendo quindi che, malgrado l'intervento assolutamente miracoloso da Deus Ex Machina di Mario Draghi di agosto, con la promessa o la minaccia retorica, perché ancora non ha preso le mosse operativamente, di fornire questa liquidità illimitata, pur se condizionata, adesso c'è un minore rischio di disintegrazione dell'area euro, però noi stiamo vivendo in Europa un drammatico rallentamento e una recessione che per alcuni paesi sfiora la depressione. Soprattutto nel nostro di paese c'è un problema ormai del tutto evidente, che c'è in atto un credit crunch creditizio, per cui gli stessi dati di oggi del bollettino di gennaio della Banca d'Italia illustrano questo, cioè le condizioni finanziarie del debito sovrano italiano sono chiaramente in miglioramento, perché i saldi sul sistema Target 2 stanno migliorando e quant'altro, però noi restiamo con un contesto congiunturale che sta peggiorando costantemente, quindi con famiglie e imprese che sono a costante rischio di essere dei cattivi pagatori o di dissesto di finanze personali e di impresa. In un contesto del genere le nostre banche, che mediamente sì, sono entrate in questa crisi con un elevato rapporto di leva, perché prestavano troppo rispetto ai depositi, stanno tirando il freno. Allora, Seminerio, che cosa propone? Perché mi faccia fare, insomma, l'avvocato dei tedeschi in questo caso. Aumentare il debito, no, in termini nominali non è possibile, ridurre il deficit e soprattutto mettere in sicurezza i conti pubblici è cosa buona e giusta, tagliare, aggiungo io, le spese della pubblica amministrazione, quelle improduttive, le consulenze di cui parlavamo prima, è giusto. E quindi non è che si può dire liberi tutti. Allora, se bisogna mantenere sotto controllo i conti pubblici, quali sono le politiche per invertire la rotta, visto che è chiarissimo che in questo momento siamo in un circolo vizioso, e cioè tu aumenti le tasse e tagli i trasferimenti, la gente ha meno soldi, spende di meno, consuma di meno, le imprese vendono di meno, licenziano di più, un licenziato consuma ancora di meno e il gioco si ripropone. Adesso l'ho spiegata un po' male, ma in questo modo il PIL non cresce, anzi cala ancora di più, e il tuo deficit, anche se l'hai tagliato a livello nominale, in proporzione continua a aumentare o non cala come dovrebbe. La soluzione, secondo lei? Guardi, la prima cosa da fare è non andare a inseguire il pareggio di bilancio qui e ora, perché quando c'è crescita si possono fare tutte le riforme possibili, ma quando si è in recessione, agire sul piano dei tagli di spesa e degli aumenti di imposizione porta da una sola parte, cioè all'inferno e alla depressione. Io trovo estremamente interessante, anche in termini di autocritica e di ripensamento, il fatto che nei giorni scorsi il capo economista del Blanchard, Fondo Monetario, Blanchard, esatto, abbia fatto notare che gli Stati Uniti per il 2013 hanno già completato la manovra restrittiva di finanza pubblica e che sarebbe utile non aumentare la stretta oltre una misura dell'1-1,5% di PIL. Se lei considera che l'Italia in un biennio ha fatto qualcosa come 5 o 6 punti di PIL e che la Spagna ha fatto probabilmente qualcosa di manovre finanziarie, cioè lei sta dicendo l'incidenza delle manovre finanziarie da noi è stata più o meno di 60-70 miliardi. Sì, qualcosa come 5-6 punti percentuali di PIL in un biennio che ucciderebbero anche un cavallo. Quindi già l'idea, i tedeschi credo che dovrebbero agevolmente mettersi in testa che esistono alcune formule anche piuttosto semplici che io nel mio libro richiamo, che indicano che quando si stringe troppo e quando soprattutto i mercati diventano diffidenti circa la possibilità di sopravvivenza di un'area estremamente sghemba come l'Eurozona, che non è un'area valutaria ottimale e men che meno un'unione fiscale, il debito non si contrae ma si autoalimenta. Quindi la stretta fiscale deve essere calibrata ad un passo molto contenuto, poi occorre evolvere verso la realizzazione di vere e proprie strutture federaliste. Mi pare che il Consiglio europeo del 28 e 29 giugno abbia posto le basi, poi successivamente rimesse in discussione dal gruppo delle AAA del Nord guidato dalla Germania. Non apriamo troppi fronti, Seminerio, sennò poi la perdiamo. Allora, lei dice, in primo luogo, va bene la stretta fiscale, ma più graduale. Se uno è malato perché è già in recessione, cioè, non è il caso di bombardarlo troppo, dagli anche le vitamine. Quali sono le e quindi il fiscal compact va rivisto, perché il fiscal compact a noi obbliga da qua al 2020 a fare tagli di 20 miliardi l'anno, per cui solo in quel modo abbiamo già finito le risorse. E quindi l'invito, se ho ben capito, alla politica è il giorno dopo le elezioni andare a Bruxelles e dire: mo adesso basta con l'egemonia tedesca, con la Francia ci mettiamo d'accordo e facciamo pressione affinché passi una linea più morbida in Europa, Germania o non Germania, non possiamo morire per il rigore tedesco, ho capito. Quindi eurobond, obbligazioni europee, che cosa? Per ora eurobond e obbligazioni europee non se ne parla. Prima allora? Bisogna stabilizzare la congiuntura e dopodiché, quando arriveremo in una condizione di stabilizzazione del PIL e di lieve inversione di tendenza, verrà anche meno determinate esigenze di emergenza e si potrà ragionare sulla messa in comune di determinate risorse, come un diverso okay. utilizzo di fondi strutturali o un diverso utilizzo della BEI per i finanziamenti. Ma allora mi dica una cosa, è una domanda che facciamo tutti gli ospiti. Quale dovrebbe essere la prima mossa di politica economica del prossimo Presidente del Consiglio? Rinegoziare, poiché sarà molto chiaro dal mese prossimo che noi non centreremo il pareggio né su base assoluta né su base strutturale, rinegoziare un rinvio di questo pareggio di 1 o 2 anni a condizioni estremamente blande. Credo che il concetto stia entrando in testa anche ai tedeschi, perché diversamente resteranno sotto le macerie. Prima o poi ci arriveremo, anche se non sarà né semplice né rapido. Oh, io me lo auguro, cioè andare a Bruxelles e dire: sapete che c'è il fiscal compact e il pareggio di bilancio al 2013, tanto non ce la possiamo fare e quindi rinegoziamolo. Faccio notare una cosa, una chiosa che le farà piacere tra virgolette. Oggi il Fondo Monetario Internazionale ha detto, poco fa, il debito greco non è sostenibile senza aiuti diretti nel budget greco da parte dell'Unione Europea, che si è impegnata in tal senso. Noi vediamo un buco nei conti e gli europei devono riempirlo. Ora dico, ma adesso anche a quelli che difendono la Germania, ma che dopo 2 anni stiamo ancora a parlare della Grecia, che vale meno della Lombardia come PIL, perché non siamo riusciti a trovare una ricetta buona. Forse qualche dubbio al medico, anche se parla così, dovrebbe farglielo venire il dubbio, no? Perché qua stiamo ancora a parlare della Grecia, che è ancora affossa perché continuiamo a tagliare e affosserà sempre di più. Su questo non ci sono dubbi. Poi scrive un ascoltatore: lei sta dando ragione a Berlusconi. Non me ne può fregare di meno, io do ragione a tutti quelli che dicono che la sola ricetta tedesca sta affossando l'Europa. L'America ieri ha avuto dati migliori delle attese, il Giappone ha messo 170 miliardi nella sua economia, la Cina è cresciuta più del previsto e noi siamo qui a dire già a gennaio che il 2013, dato dalla Banca d'Italia, andrà 2 volte peggio rispetto alle stime. Non so cos'altro deve succedere. No, non mettetemi Frankenstein Junior, no, basta. Seminerio, buon fine settimana, comunque vada. Grazie anche a voi, buona serata. La cura letale, casa editrice Rizzoli, chi sta facendo fallire l'Italia e come l'Europa sta peggiorando le cose. A me non resta che ringraziare, come sempre, Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per l'assistenza anche questa settimana in redazione, la sopportazione, e augurare a tutti voi un buon fine settimana. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.